sentite bene qua nel rito romano che noi celebriamo, festeggiamo la solennità di Cristo Re, è l'ultima domenica del tempo liturgico. Quelli di voi che sono di Milano l'hanno già festeggiata 2 settimane fa, ma viene bene anche per loro tornare su questa bellissima solennità che ci dà molta speranza, che ci dà molta, chiediamo al Signore che ci dia molta fede nel suo regno, no? Nella sua potenza, e ritornare con la mente a considerare che tu, Signore, sei il Re di tutta la creazione, il Re di tutta la storia. Oggi nella messa, quando ecco, abbiamo delle letture così che possono sembrare diciamo come quasi in contrasto, invece della nostra fede sono molto coordinabili. Leggiamo nella lettera di San Paolo ai Colossesi: fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Noi ti celebriamo, Gesù, Re dell'universo, Re della storia, Re della creazione, e quindi in te mettiamo la nostra speranza, non tanto nelle nostre forze o una speranza sullo svolgersi delle cose terrene secondo il nostro desiderio, no? Secondo la nostra speranza terrena, no? E in questo senso, ecco, noi quelli a cui, ecco, della convivenza dei cooperatori ieri hanno ascoltato una conferenza di cui ho ascoltato solo alcuni brani, alcuni passi, una videoconferenza con dei numeri statistici sulla Chiesa in Italia, no? Sulle vocazioni, e ovviamente questi sono lavori preziosi e importanti anche per sapere come va la realtà di cui noi ci sentiamo parte come figli e in una famiglia, come fratelli di Gesù Cristo. Allo stesso tempo, quando ascoltiamo così i numeri o le statistiche, dobbiamo sempre pensare che è Gesù, il Signore della storia, che poi i numeri hanno una relatività, che Lui sa leggere il suo regno, sa farlo fiorire anche dove noi non vediamo. No? E quindi questa, la visione di San Paolo è molto importante, perché noi dobbiamo oggi con la nostra fede tornare a dire: Cristo è Re perché ha creato Lui tutte le cose, per mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle dei cieli e quelle sulla terra, no? Le cose visibili e le cose invisibili. Oggi nel credo della Messa torneremo a manifestare questa nostra fede. Quindi anche nei momenti di difficoltà, ricordo, ecco, nei rivolgimenti, nelle difficoltà della Chiesa del post-concilio, dopo il Vaticano II, Santa José María ci tornava a dire che la nostra fede deve essere fondata in Cristo, no? Per Cristo, con Cristo, in Cristo. E il padre, il prelato attuale, è appena stato eletto, ci ha scritto una lettera in cui ci ha dato come priorità centrarci in Cristo, no? E vivere, pensare, parlare, scrivere, insomma, muoversi, progettare l'apostolato tenendo presente la centralità di Cristo, no? E questo è sembra una cosa scontata, ma non lo è. E quindi anche oggi noi mettiamo ai piedi di Cristo, mettiamo sull'altare di Cristo tutta la nostra vita, tutti i nostri propositi, il nostro agire, le nostre famiglie, le nostre intenzioni, e col desiderio che tu, Cristo, sia davvero il re della nostra vita, il re della nostra anima. In effetti, quando mi colpisce sempre in questa festa nella quale nell'Opus Dei si rinnova la consacrazione al cuore sacratissimo di Gesù, il fatto che San José María abbia scelto per questo gesto che potrebbe sembrare, e lo è in parte, devozionale, cioè ha scritto una bellissima preghiera in cui noi ci mettiamo nel cuore di Cristo, vogliamo abitare nel cuore di Cristo, vogliamo lasciare che Cristo abiti nei nostri cuori, lasciare il nostro cuore disponibile alla sua dimora, no? E d'altra parte tu, Gesù, hai promesso che chi mangia la tua carne e beve il tuo sangue, cosa che noi faremo nella messa tra poco, dimora in me e io in lui, quindi abita, noi abitiamo in Cristo nel suo cuore, e tu, Gesù, abiti nel nostro cuore, anche grazie a questo miracolo quotidiano del celarci di te, no? Di tutta la tua persona. E ecco, allora in effetti, anche quando, se leggete l'omelia di Santa José María sul cuore, su Cristo, ecco, mi colpisce che abbia scelto la festa di Cristo Re per la consacrazione al cuore di Gesù. È come a dirci che non dobbiamo sbagliarci nel vivere la festa di Cristo Re come con quello stesso errore che hanno avuto i discepoli, che gli dicevano: ma adesso devi costituire il regno di Israele, cioè con una visione, diciamo così, politico-temporale, no? della regalità di Cristo, invece farlo regnare nei nostri cuori, che è l'unico modo vero perché poi dopo regni anche nel mondo, nella società, che passi dal nostro cuore al cuore dei nostri familiari, dei nostri amici. Vi dicevo allora che nel leggere l'omelia di San José María dice queste cose, no? Se vogliamo che Cristo regni, dobbiamo essere coerenti, donargli per prima cosa il cuore. Cristo regnerà nella nostra anima e in quella di coloro che ci sono vicini, e così via, no? Cioè, questo è il suggerimento. Poi ci sono tanti altri suggerimenti, per esempio sul fare della nostra vita un servizio, no? Perché Cristo regna servendo. Allora, oggi, ecco, vi dicevo che nelle letture della Messa può apparire una sorta di contrasto per questa visione grande, bellissima, che San Paolo propone, no? E infatti che poi la nostra fede ci insegna, Cristo regna perché ha creato tutte le cose, Cristo regna a motivo della sua unione ipostatica, cioè è Dio che si fa creatura, quindi non può che essere Lui tra gli uomini il re, di tutto il creato, perché è Dio. E poi c'è un altro motivo per il fatto che Lui debba essere re, che è l'opera della redenzione. Cristo ci ha riconciliato con il suo sangue tutta la creazione, no? Noi, fra poco nella messa, il sacerdote dirà nell'offertorio, no? Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. E poi il vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Ma quando parla del pane, frutto della terra, ecco, dobbiamo pensare che in quella frase antica che Paolo VI ha voluto fortemente che fosse messa nella liturgia, possiamo pensare che quel suolo, quella terra, che a causa del peccato di Adamo fu maledetta, maledetto il suolo, perché Dio non maledice né l'uomo né la donna, ma gli dà attraverso la fatica e il dolore un rimedio all'idolatria. Però il suolo fu maledetto. Però poi in Cristo quella terra creata da Dio, quella terra di cui anche l'uomo è fatto, con il suo sangue che cade dalla croce e impregna il suolo, diventa benedetta. Tu Gesù hai di nuovo riconciliato il mondo con Dio. E noi proprio lì sulla croce ti vediamo oggi, durante la messa, nella lettura del Vangelo, che appunto e ci sorprende ancora una volta questa tua regalità grande e solenne. Viene festeggiata dalla Chiesa oggi con il brano del Vangelo del buon ladrone, diciamo così, no? Perché il buon ladrone dice a Gesù: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli risponde: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Ci sorprendiamo perché così è tu, Signore, vuoi che si realizzi il tuo regno, dalla croce e con una conversione rapida, istantanea, qualche istante prima della morte, che nessuno conosce, che non entra in nessuna statistica. Quante cose accadono anche oggi nella vita della Chiesa che non entrano in nessuna statistica. E alcune cose, molte le conosce solo il cuore di Cristo e il cuore di Dio. Alcune le conoscono i sacerdoti, ma il singolo sacerdote che poi le tiene per sé perché le deve tenere per sé. Siete voi, ciascuno di voi, perché ciascuno di voi è chiamato a essere Cristo che passa, no? Gesù che passa, e a portare il regno di Cristo a tutte le anime che incontra, se lo accolgono. Io ho provato a vedere, ma solo per dare uno spunto alla vostra orazione, alla mia anche, ho provato a vedere. Visto che questo brano del buon ladrone lo racconta solo San Luca, possiamo pensare forse perché Maria, che era lì sotto la croce, ha ascoltato questo dialogo. Sapete che Luca è l'evangelista che più di tutti narra le vicende di Maria, no? Dall'Annunciazione in avanti e fino alla Pentecoste, no? Maria con i discepoli di Gesù, narrata da Luca negli Atti degli Apostoli, che possa essere stata lei a cogliere questo dialogo, perché ecco, oppure Gesù dopo la risurrezione, ma Gesù in genere è molto riservato nel raccontare i dialoghi. Io penso che tutti i dialoghi che racconta nel Vangelo, che il Vangelo racconta personali dei personaggi vari con Gesù, siano stati i personaggi a raccontarli, no? Simone Fariseo, che si sente conosciuto nel profondo del cuore, Gesù conosce i suoi pensieri e lo corregge, no? Quel maestro non è un profeta perché non sa chi è quella donna che lo tocca, e Gesù gli spiega che quella donna non lo tocca ma lo ama e quindi può essere perdonato dei suoi peccati. O la samaritana, venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Io penso che gli abbia detto di più di quello che c'è nel Vangelo. E in questo caso, quindi, per questo penso che sia stata Maria. E allora in Luca questo regno di cui parla, ecco, di cui parla il buon ladrone, come viene descritto da Gesù, come viene detto, è una parola in cui ci sono dentro tante cose, no? C'è dentro il mistero della Chiesa, è qualcosa che comincia, che si concluderà solo alla fine dei tempi, che avrà la sua pienezza appunto nell'eternità, che non si è ancora pienamente conclusa questa vicenda del Regno di Dio. E comunque è sorprendente e bellissimo vedere che il primo annuncio del Regno avviene proprio nell'Annunciazione dall'angelo a Maria. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Il suo regno non avrà fine. Che bello lavorare per un regno così, no? Mi pare che fosse, raccontavano che Isidoro Zorzano, no? Diceva una giovane vocazione, qualcosa di questo tipo, no? Non ti dà serenità, speranza lavorare per un regno così che non avrà fine. E noi dobbiamo rinnovare questa fede sempre di fronte alle nostre debolezze, alle nostre fragilità o alle fragilità della storia, no? che noi possiamo vedere, alle difficoltà della Chiesa. Il suo regno non avrà fine. E questo è un regno che è una buona notizia da annunciare, no? Gesù dice: è necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato, annunciare la buona notizia del regno. E pensiamo che noi dobbiamo annunciare questa buona notizia, poi dobbiamo avere la generosità del seminatore, no? che semina senza paura che quel seme vada là dove poi non dà frutto. E nelle beatitudini di Luca, la beatitudine della povertà è: beati i poveri, voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. E poi Gesù dice che ciascuno di noi, cioè ciascuno, il più piccolo nel regno di Dio, è più grande di Giovanni Battista, che è il più grande dei nati da donna. E poi ecco, quella parabola, la parabola del seminatore che ho accennato prima, è proprio una parabola che in Luca non dice così, ma San Marco dice, Gesù dice ai discepoli: ma se non capite questa parabola, come farete? Perché è una parabola essenziale per il regno di Dio, è quella del seminatore che getta il seme e solo una parte di quattro dà frutto, che rimane un frutto che può essere 30, 60, 100. A voi è dato conoscere il mistero del Regno di Dio. Quindi ci spiega questa parabola, che è proprio una parabola che narra il mistero del Regno di Dio. Quindi pensate quando appunto ci troviamo di fronte personalmente, collettivamente, insomma, anche per quel poco che possiamo sapere, la vita della Chiesa. E poi sappiamo veramente poco, e perché la Chiesa è universale e poi soprattutto è un mistero soprannaturale di cui solo Dio conosce l'efficacia, no? Di salvezza. E ecco, dobbiamo pensare a quella parabola. E Gesù non ci assicura un'efficacia più grande, ci chiede di seminare, come San José Maria diceva in un punto di cammino, di seminare con generosità, poi è Dio che dà la forza e l'incremento al seme della sua parola che noi gettiamo. E poi, ecco, quando manda i discepoli, li manda ad annunciare il regno di Dio, e poi anche a quello che, ecco, che vuole aspettare un attimo perché deve seppellire suo padre. No, tu lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece vai e annuncia il nome di Dio, no? Quello che vuole salutare quelli di casa sua. Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. E poi la regola, potremmo dire, la regola d'oro di questo regno, no? Per come si fa ad entrare. Gesù dice, in tanti modi, però questo dice, quando dice: in verità vi dico, alcuni dei presenti non morranno prima di aver visto il regno di Dio. Poco prima dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Perdere la vita per il Signore. Forse oggi nel guardare il buon ladrone, lui andò sulla croce non per Gesù, Forse era, non so, aveva combattuto i romani, aveva fatto qualche strage, non sappiamo. Eppure sulla croce dà la vita per Gesù, dà un significato diverso alla sua morte, perde la sua vita e la ritrova. Io, ecco, penso, nel libro Sorpresi dall'amore ho messo un racconto che mi immagino che anche l'altro discepolo, l'altro ladrone, alla fine si converta e si salvi. Perché, ma questo nacque dal fatto che una volta una persona mi chiese che fine avrà fatto l'altro ladrone. E io mi sono messo a riflettere un po' e ho pensato: guarda, sta sulla croce accanto a Gesù e la morte più invidiabile, no? Anche se è tremenda, però è accanto al Salvatore, che sta morendo per salvarci. Poi lì sotto la croce c'è Maria che prega per lui. E poi ha un amico che lo aiuta. Infatti quell'amico lo corregge proprio davanti a Gesù. E gli dice: ma perché dici questo? Quindi ha tutti gli elementi per poter poi dentro di sé pentirsi e capire che lui stava solo ripetendo un po' come un pappagallo, no? Quello che dicevano i farisei sotto la croce, no? Ha salvato gli altri, salvi se stesso. era dentro alla logica della legge, che però Gesù supera totalmente. E pensate che, ecco, Gesù ci dice anche: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. E il regno ha una misteriosità, cioè come, ecco, è come Gesù dice: a che cosa è simile il regno di Dio? A cosa lo posso paragonare? Simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido tra i suoi rami. E più avanti, e subito dopo, a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Io già avevo letto in un autore che questa frase sul lievito forse poteva essere un ricordo di Gesù. Bambino che aveva visto Maria, sua madre, impastare la pasta col lievito, e poi nel rileggio ho visto che c'è questo passato remoto, una donna prese, no? Quindi può essere proprio questo un ricordo. E poi allora, quando scrissi un libro su Maria, lo misi dentro, poi quando è andato alle stampe, poi mi è ricapitato questo Vangelo e ho visto che prima parlava dell'uomo che prese un seme e ho pensato: questo è Giuseppe. No? E ho cercato di, l'ho messo nel libro su Giuseppe, no? Su Giuseppe Maria. Questo ci dice, può essere un ricordo di infanzia, ma no? Il papà che gli fa vedere come il granellino, ecco, è piccolissimo e poi viene gettato in terra e poi non si vede niente, poi si vede una piccola pianta che sale e poi diventa un albero lungo i decenni. E Gesù ci sta dicendo con questi esempi che il regno di Dio, che è una realtà soprannaturale, però ha nella realtà creata dei segni che ci spiegano com'è, cioè è collegata col creato, non è totalmente soprannaturale e allo stesso tempo è dentro alla nostra vita di ogni giorno, è dentro al nostro lavoro, no? Il lavoro dei campi, il lavoro della donna che fa il pane, ogni tipo di lavoro, ogni tipo di lavoro. Ogni tipo di lavoro noi lo mettiamo sull'altare oggi perché è lavoro del Regno di Dio. Ogni tipo di lavoro diventa Eucaristia attraverso la Messa. E noi anche a un certo punto ci fidiamo di Dio, no? Ci fidiamo di Dio. San Marco dice anche, aggiunge quell'altra immagine. Come un uomo che getta il seme nel terreno, dorme, vegli, di notte, di giorno, il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa, non lo sa. E poi vi suggerisco, quando leggete il Vangelo, di provare ad annotare quando Gesù dice, parla del regno di Dio, no? Il regno di Dio che i farisei gli domandarono: quando verrà il regno di Dio? Lui rispose: non viene in modo da attirare l'attenzione. E nessuno dirà: eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. E poi bisogna essere come bambini per entrarvi, poi non dobbiamo essere attaccati alle ricchezze per entrarvi e così via. Poi dobbiamo avere speranza perché lui dice: non abbiate paura, no? Vi ho preparato un regno. Così il Signore nel Vangelo ci svela un po' questo mistero del suo regno e ci dà alcuni segreti, no, per potervi entrare. Ti diciamo Gesù con le stesse parole del buon ladrone, ricordati di me adesso che sei in paradiso, ricordati di tutte le persone che mi sono care, ricordati di tutta la Chiesa, ricordati di tutta l'umanità per cui tu hai versato il tuo sangue, ma donaci questa fortezza interiore, questa speranza, non permettere che noi ci scoraggiamo di fronte alle difficoltà del mondo. Tu fin dall'inizio ci hai detto che questo regno passa attraverso le persecuzioni, che passa attraverso la croce. Ci hai detto in qualche misura, ecco come io ti metto nel mio cuore, ma non ti dico che stare nel mio cuore, ti dico che stare nel mio cuore è essere infinitamente amato da me, è essere infinitamente protetto da me, ma non è senza dolore, non è senza spargimento di sangue. E allora noi vogliamo accettare quel dolore, quello spargimento di sangue che tu prevedi per ciascuno di noi e per la tua Chiesa in ogni epoca della storia, e tutto questo ti affidiamo nella tua messa e nella nostra messa, accompagnati anche noi come te e come coloro che erano crocifissi con te dallo sguardo di Meia.